Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis, settimana speciale quella che si apre oggi in collaborazione con il progetto Audi Innovative Thinking. Parliamo di lotta alla contraffazione. L'Italia è con tutta probabilità il paese che paga a più caro prezzo la pratica della contraffazione, da 1,5 a 7,5 miliardi a seconda delle fonti e dei criteri di calcolo. Per alcuni marchi particolarmente famosi del lusso, pensate un po', l'incidenza della contraffazione può toccare punte dell'80%. Stasera allora parliamo di un nuovo metodo anticontraffazione intorno al quale è nata una startup, Univocal, premiata tra le 10 delle più innovative del concorso Changemaker for Expo 2015. Ne parliamo con il amministratore delegato, che però è anche uno delle persone con competenze tecniche, Francesco Di Genova. Benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Allora, Di Genova, intanto ci faccia capire quali sono le difficoltà che tipicamente bisogna superare per fare un'etichetta anticontraffazione efficace, perché è così difficile? Allora, per quanto riguarda la realizzazione di una buona etichetta anticontraffazione, bisogna tenere presente ovviamente un aspetto, cioè qual è? Che la contraffazione è sì un danno per le aziende sotto il punto di vista economico, come ovviamente presentava lei, ma è un danno fortissimo anche per il consumatore finale. Che non sempre sa se sta comprando una contraffatta o un originale. Esatto, che alcuni di questi prodotti ovviamente sono anche molto dannosi per la salute. E come si riesce a realizzare un sistema che comunque tutela il consumatore in tempo reale per fornire informazioni circa il prodotto che sta acquistando? Ovviamente i sistemi cartacei come l'ologramma sono degli strumenti totalmente passivi. Non credo, sfido qualsiasi consumatore a saper riconoscere se l'ologramma è giusto o quello sbagliato. Ok. Esatto. Ci sono insomma varie tecniche, no? Ci sono i QR code, varie etichette, per cui io metto lì per esempio il mio cellulare, leggo il QR code e vedo se quel QR code corrisponde a un articolo originale. Esatto. Quali sono i problemi in questo caso? È sicuramente una soluzione più avanzata rispetto all'ologramma, ma essendo anch'esso un elemento cartaceo soffre, nonostante si possano utilizzare degli accorgimenti particolari, soffre sempre del problema della clonabilità. Insomma, basta fotocopiarlo, è facile copiarlo, questo è il punto, no? Esatto, basta una fotocopia e io ho creato un'etichetta identica a quella originale. Diversamente, noi abbiamo realizzato un dispositivo basato sulla tecnologia NFC, che è una tecnologia a bordo ormai sulla maggior parte degli smartphone. Questa etichetta viene annidata all'interno dei prodotti e, avvicinando lo smartphone al prodotto e quindi all'etichetta, riusciamo a identificare se il prodotto è originale oppure no con una certezza pari al 100%. Al 100%, cioè il problema è che, come dire, gli esperti di contraffazione di solito riescono a rifare anche le etichette. Ecco, perché invece questo vostro sistema si può considerare, almeno dal punto di vista della clonabilità, diciamo così, infallibile? In realtà è un sistema abbastanza diffuso ormai. Allora, l'infallibilità deriva dal fattore della firma digitale, cioè quello che noi realizziamo è un'etichetta con all'interno un livello di security pari a quello utilizzato dai dispositivi di firma digitale, dal passaporto elettronico. Usiamo esattamente lo stesso meccanismo, ovviamente dimensionato in forme molto più piccole, tenendo ovviamente conto che il tutto riusciamo poi a farlo offline, quindi non c'è bisogno di connessioni a dei server, a internet o invio di SMS. Ecco, per provare, come dire, a spiegare, anche se in termini estremamente semplici, come possa avvenire questo senza fare un confronto, diciamo, tra l'etichetta e una qualche banca dati, in pratica la vostra app è come una specie di serratura che si apre con tante chiavi, però ben precise quelle chiavi devono essere, per cui se scatta la serratura io so che quella chiave è una chiave originale. Esattamente, e dobbiamo considerare che quella chiave ovviamente non è clonabile per un insieme di fattori che non riusciamo a spiegare, ma sono ben noti. Abbiamo parlato di contraffazione, qualcos'altro si può affrontare con lo stesso approccio? Assolutamente sì, che è un altro approccio molto di interesse per l'azienda, che è quello della tracciabilità del bene. Cioè, io consumatore finale, quando interagisco con questo dispositivo, oltre ad avere informazioni sull'originalità del prodotto, posso anche essere informato, sempre dal brand stesso, se il prodotto è stato manomesso, se è stato rubato. Cioè, io ho una borsa di valore, mi viene rubata, lo comunico alla casa diciamo che l'ha prodotta, per cui se un'altra persona va a comprarla, in teoria con la stessa app riconosce che quello è un oggetto rubato, giusto? Esatto, ma questo anche ovviamente a livello di consumatore, cioè se io mi compro la borsa e poi mi viene rubata, se un'altra certo. persona interagisce con la mia borsa, io riesco a scoprire dove quella borsa si trova. Grazie Francesco di Genova. Buona serata. È tutto, a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.